Un'occasione per i titolari, i dirigenti e i responsabili della sicurezza delle aziende per chiarire i propri dubbi e trovare risposte ai quesiti che riguardano la sicurezza sul lavoro. L'AIAS, associazione professionale che si occupa del settore, ha dedicato un'intera giornata al tema della responsabilità e prevenzione sui luoghi di lavoro più soggetti a rischi, come cantieri edili. Argomento di enorme attualità, gli incidenti e purtroppo le morti bianche sono una tragica realtà. L'avvocato Giorgio Carozzi è stato uno dei relatori. Il quadro legislativo è persino ridondante, ce n'è persino troppe di norme. Il problema vero non è la mancanza delle norme, ma è la consapevolezza della utilità della loro applicazione, e il vero motivo è che ancora adesso viene vissuto soprattutto per le sanzioni e non per le opportunità che offre. Dalle parole ai fatti, in particolar modo all'innovazione, fra gli stand di Made Expo sono tante le aziende che espongono soluzioni moderne e più sicure per gli operai. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore.